Bene. La Luca Coscioni si occupa spesso di embrioni. Marco, ma l'embrione umano è persona? Ha un'anima? Dimmi tu, rischiarami la mente su questo tema. Scusa, me lo chiedi, lo sai? Io? Lo sai quello che penso? Ma, ripetita aiuto. Lo sanno. Anche forse, loro. Forse Vito Mancuso non lo sa. Sì, Mancuso lo sa. Io ho cominciato con lo zigote e Missori non me lo perdona. Mi ha detto una volta, non dimenticherò mai, quando tu hai tirato fuori la storia della zigote polemicamente, eccetera. Vabbè, adesso invece si discute dell'embrione. Ma in realtà, come se ne discute, si include lo zigote tranquillamente, perché mi pare che nel momento stesso in cui avviene l'incontro biochimico, l'incontro fra il seme maschile e l'ovulo femminile, in quel momento si tende a dire lì c'è persona. Altri dicono lì c'è vita, anche su questo credo che sia quasi una banalità, che peccato però diventa forse necessario anche ripeterlo. Potrei anche dire che dinanzi a questa posizione mi sono trovato non sorpreso, perché dal luogo dal cui veniva negli ultimi anni, con particolare enfasi, questa sottolineatura, vaghi ricordi che avevo di educazione catechistica, religiosa, e poi anche un po' medie e liceali. Da una parte ricordavo il concepire con l'amore, l'amore, anche alcune pagine che a me possono sembrare profetiche del Vangelo e che non pare che non debbano assolutamente essere ritenute tali dai custodi, i banchieri del Vangelo, delle verità assolute religiose. E in più, l'altra cosa è che c'era il ricordo dei tempi diversi per l'animazione dell'uomo e della donna. D'accordo, sappiamo che era un'eredità di un'altra cultura, ma è durata abbastanza a lungo. E ricordo ogni tanto che nel 1913, mi pare, ancora c'era una norma del codice canonico che diceva... 1917. C'era una norma che diceva che dare qualsiasi sacramento a quel che ictu oculi non avesse sembianze umane non era lecito. Canone. Su questo ho avuto occasione, come esempio, di rapidamente parlarne con Papa Giovanni Paolo II, e dopo qualche anno fui molto felice di sentire che a Bologna lui avesse chiesto ufficialmente di approfondire questo aspetto e l'avesse chiesto ai teologi. E in un momento nel quale adesso tutto è teologia, il grande teologo, gli altri e via dicendo, non mi sembra che sia venuta risposta a quella richiesta di Papa Giovanni Paolo II, proprio su questo tema. Mentre abbiamo visto altre cose, scompare il purgatorio, insomma, vedo tante cose che stanno venendo fuori, che ho sospetto che abbia a che fare anche con quella domanda, con quell'invito di Giovanni Paolo II. Mancuso, perché la questione dello statuto dell'embrione non è una questione lana caprina, bizantinistica, Si è giocato il referendum sulla legge 40, le gerarchie si sono impegnate, c'è la questione della libertà di ricerca, Barack Obama sta tirando avanti un certo tipo di politica, l'incontro in Vaticano a luglio tra Papa Ratzinger e il Presidente degli Stati Uniti si è anche giocato su questo tema. E quindi l'embrione? Beh, che non sia un tema secondario, superficiale, è fuori dubbio, è un tema importante ed è giusto, secondo me, che si rifletta su questa cosa, ed è giusto, giustissimo, che si rifletta, che si discuta, che lo si faccia a volte animosamente, perché le anime, gli animi sono sempre in gioco. Stiamo parlando dell'inizio della vita umana, perché una cosa è sicura, appunto, l'ha detto anche Marco Pannella prima, in maniera molto, molto chiara, che è vita, è del tutto evidente. Secondo, che è vita umana, è altrettanto evidente. Allora, nessuno dice, che sappia io, che è una persona, anche il documento Vaticano non dice che è una persona, dice che questa vita umana va trattata con la dignità di una persona. E anche da questo punto di vista non mi sembra qualche cosa di né di sbagliato né di oscurantista, cioè rispetto per la vita in tutte le sue forme, per la vita anche per la vita non umana, per la vita vegetale, rispetto per, io non devo fare quello che voglio delle piante, delle, e così pure rispetto per la vita vegetale, rispetto per la vita animale, rispetto per la vita umana, anche per la vita intrauterina, e perché no? Rispetto. E per quale motivo non bisogna giocare con questa cosa? Quindi, va bene, detto questo, mi sembra giusto. Il grosso problema, ovviamente, che concerne, una volta stabilito questo, concerne il problema della ricerca. Ovvero, per essere più chiaro, dal mio punto di vista, no alla creazione in nessun modo di embrioni appositamente perché siano utilizzati per la ricerca. Questo mi sembra che debba essere, come dire, una cosa bandita, che una società non può ammettere, una società civile, perché verrebbe meno proprio quel rispetto incondizionato per la vita, anche semplicemente ancora non dotata di anima personale, mettiamola pure così. Quindi anche ammettendo che non ci sia la personalità, ciò nonostante potenzialmente se la lascio stare lì la persona ci sarà e quindi devo lasciarla stare. Però il problema vero si ha dove? Si ha sugli embrioni sovrannumerari che scaturiscono dalla fecondazione assistita. Che ne facciamo? In Italia dicono che siano circa 30.000. Allora, la vera questione è, non bisogna, secondo me, creare embrioni appositamente per la ricerca, ma perché non destinare alla ricerca quegli embrioni che necessariamente scaturiscono e scaturiranno dalla procreazione assistita? Tra l'altro, e chiudo, naturalmente io sono favorevole a questa cosa, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, perché comunque l'alternativa è semplicemente quella di una morte a scadenza, insomma, non c'è verso. Quindi si tratta di considerare queste forme di vita e di vita umana nell'ipotesi del dono, così come si donano gli organi, così dei genitori che hanno dovuto, per così dire, mi scuso se ci sono dei tecnici, di sicuro ci sono presenti, io sono un po' grossolano, io non sono un bioeticista, non è la mia materia, ma che hanno dovuto far mettere al mondo degli embrioni per poter giungere ad avere legittimamente un figlio che semplicemente il corso naturale non avrebbe loro consentito di avere. Ecco, è lecito, a mio avviso, e quanto mai è auspicabile, oltre che lecito, che questi stessi genitori possano avere la possibilità di dare alla ricerca scientifica, ovviamente non così gratuita, ma tesa alla sconfitta di pesantissime malattie, possano dare alla ricerca questa forma di donazione. Questo mi sembra. Mancuso, il tema degli embrioni riguarda l'aspetto dei diritti. C'è il tema del testamento biologico che è più strettamente connesso col tema della libertà. Ma la libertà implica, prima di tutto, diritti o doveri. E qui entro sul tema del testamento biologico. La politica deve dire la sua? Il Parlamento è legittimato a dire la sua? O è un tema che tocca non tanto lo Stato, non principalmente lo Stato, ma la comunità? Il tema del testamento biologico, ed è la polemica di questi mesi, fra l'altro, è un tema che riguarda quindi la sfera comunitaria o è un tema di cui lo Stato, il Parlamento, quindi gli esecutivi, non possono non chiamarsi fuori? Guarda Giuseppe, qui ci vorrebbe un politico, forse più Marco, io adesso dico la mia, insomma, perché la domanda che mi hai posto, cosa deve fare la politica se si deve... Io quello che posso vedere da semplice cittadino è che alcune parti politiche prima dicevano no, del testamento biologico non bisogna assolutamente parlare, non si deve fare una legge, e oggi quelle stesse parti politiche che prima negavano la legge proprio a seguito del caso Englaro adesso sono quelle che vogliono la legge. Viceversa, alcune che prima spingevano molto per la legge adesso dicono, visto le maggioranze che ci sono in Parlamento, dicono no, è molto meglio non fare la legge. Quindi insomma, il politico è l'homo politicus, per definizione è colui che sa calibrare le opportunità o meno del momento per ottenere il risultato migliore. Questa è l'arte della politica. Vabbè, ma io su qui non... posso dire la mia per quanto concerne il testamento biologico, cioè una società laica, perché di questo si parla, deve mettere il cittadino nelle condizioni di vivere la sua vita, in tutti i momenti della sua vita, secondo... Le possibilità, le visioni del mondo, gli ideali che ciascuno ha. Venendo poi al momento della morte, occorre far sì che la società consenta a ciascun cittadino di vivere la propria morte in coerenza con i principi in base ai quali ha vissuto la propria vita. Semplicemente questo, questa è la giustizia, dare a ciascuno il suo, sta scritto anche sull'Osservatore Romano, uniquique sum, dare a ciascuno il suo. Quindi si tratta di dare a ciascun cittadino la possibilità di vivere. Vivere la morte è una delle cose più è uno dei momenti, tra l'altro, che per la spiritualità, per le grandi filosofie, è uno dei momenti più alti. Secondo Platone tutta la filosofia è imparare a morire, la stessa cosa diceva Montaigne, la stessa cosa sta scritto nelle Upanishad, cioè assumere fin da ora, fin da quando siamo in salute e così via, con coerenza, con responsabilità, il momento ultimo della morte, ma è qualcosa di dove si gioca fino in fondo, si misura lo spessore umano, chi sei tu. Che cosa vuoi tu? E lì. E quindi che cosa deve fare una società laica? Ma fare in modo veramente che ciascuno si autodetermini sulla propria vita, non sulla vita altrui e sulla morte, ma sulla propria vita, secondo le convinzioni ideali che uno ha. E questo il testamento biologico deve essere. Lui si è rifatto al principio della giustizia distributiva, che era un principio che piaceva poi molto a San Tommaso. Tu da politico che si interessa di temi spirituali, religiosi, di religiosità, sul tema del testamento biologico? Scusa, due cose. Una, capisco, parlare delle cose di stretta attualità, ne sono felice anche perché conosciamo le posizioni di un cattolico, credente, teologo eccetera, come Vito, ed è doveroso che le si conosca le sue posizioni e credo le si possa condividere molto spesso. Però c'era un inciso prima, quando parlavi Vito della vita intrauterina, ma è ripartito dal fatto di riconoscere la dignità di persona, perché prima hai avuto un primo fatto, e vita umana nessuno lo discute. Dopodiché nessuno dice che è persona, no? Ma che gli si deve riconoscere dignità di persona. Vabbè, su questo vogliamo approfondire un tantino. Io credo che è bene dare la dignità a tutto l'esistente, nella sua specificità, nel suo. Ma trovo ai limiti del blasfemo dire che qualcosa al quale, sicuramente non per caso, la vostra religione vietava qualsiasi forma di sacramento, e sappiamo che qual è per voi il sacramento, il battesimo, in termini di vita eterna, in termini di collocazione di quell'essere. Poi c'è la cresima anche. E sì, no, ma è, mi pare importante. E lì c'era, mi pare chiaramente, il riconoscimento che di questo non sono persone. Perché poi, se no, viene facile dire che noi neghiamo la dignità della persona nello stesso modo nella Shoah e se ci masturbiamo o non so che cos'altro facciamo. E su questo, proprio devo dire, siccome da anni sentiamo che vi sono i custodi della vita e gli altri, tra l'altro poi sono gli illuministi, i liberali, i dentro, insomma, sono una bella serie, no? In realtà compiono scelte che sono di morte, direi addirittura consapevolmente, per la polemica che ne viene fatta. E io dico che riconoscere la dignità di qualcosa che ha visto la luce, che è stato procreato, perché insisto, una cosa è concepire, volere, un'altra cosa è procreare. Perché su questo è un passaggio nel quale non intendo per il momento, non vedo motivo di mollare una sola cosa. Che vi sia una speranza umana, che sia quella appunto di giungere a concepire la vita invece che procreare semplicemente come qualsiasi altra specie, come crediamo che qualsiasi altra specie umana procrei, non sono disposto a rinunciarci, anche perché credo che da questo punto di vista le religiosità finiscono per essere quasi concordi. E quindi non sono d'accordo, cioè riconoscere la dignità di persona alla persona. Possiamo, la dignità dello zigote, la dignità dell'embrione all'embrione, e via dicendo. Credo che anche nella religione si facesse poi non casualmente un dibattito sul momento dell'animazione. E credo che sia un millennio almeno questa riflessione c'è stata. Anche di più. Ecco, io dico almeno perché penso, ho notato la prima contestazione forse di questo tipo. E su questo, Vito, no. Cioè voglio capire. Il termine dignità. No, io ritengo che la dignità dell'embrione, dello zigote, non sia un concetto giusto. Il rispetto può essere un'altra cosa. Ma poi anche, no, andiamoci piano, c'è anche il problema del non trattare tutto come soggetto-oggetto. Ritengo che sia francamente blasfemo, ma dico sostanzialmente blasfemo, quello di attribuire dei diritti che sono invece dei doveri che si danno ai viventi, che possono praticare diritti o doveri, ma dire che c'è il diritto alla dignità dello zigote o il diritto alla dignità del feto, il diritto di qualcuno a cui si presta. È vero, la natura porta in determinate condizioni che si giunga alla nascita, che ha questa economia naturale, ma fra l'economia naturale e l'economia umana, l'economia morale, non uso un altro termine, più proprio, tutto questo credo che sia bene. Tu hai detto lo Stato, io da liberale sullo Stato vado sempre con una certa attenzione, perché ci abbiamo Stato e Stato. Ho ricordato oggi agli amici che dinanzi allo Stato cinese, che praticava con violenza contro i feti femminili, violenze per legge in termini generali, ho detto che io invece vorrei la libertà del rientro dolce in una situazione nella quale sappiamo che a questo livello, a questo momento dell'antropologia che conosciamo, lì dove crescono cultura e possibilità di vita migliori, in questo momento il riflesso antropologico è quello di volere passare a concepire il figlio invece che farne tanti, per dare, come è un lascito antropologico, molte braccia di lavoro alla tribù, alla famiglia. Beh, chiarissimo il ragionamento di Marco. Desideri replicare? Ma brevemente, solo per dire, primo, che per quanto concerne la storia del cristianesimo in 2000 anni ha veramente visto di tutto, insomma, quindi ha visto la negazione dell'attribuzione dei sacramenti, ma ha visto anche il battesimo dei feti, quindi veramente ci sono proprio dei manuali settecenteschi che insegnavano come battezzare i feti con dei ferri per prelevarli e nel pericolo di morte in pericolo di morte per la madre, poter estrarre il feto e quindi è per dire che la storia veramente contiene di tutto ed è veramente un calderone dal dove ciascuno tira fuori sempre i fatti, le idee, le opinioni, le cose che servono maggiormente alle proprie tesi. La storia è anche scelta, sono d'accordo con te, sì, non caso. Sì. Questo, no, il discorso è di questo tipo. Adesso noi possiamo discutere dignità o rispetto e così via, ma faccio un esempio, cambiando oggetto, e spero di essere chiaro, anche perché è un argomento estremamente delicato, soprattutto quello che adesso andrò a toccare come esempio, mi riferisco alle persone handicappate, alle persone che nascono gravemente handicappate. Ora, il nostro secolo, e per il nostro secolo intendo il Novecento, questo secolo bistrattato, secolo sanguinoso, secolo breve, ma anche il secolo che ha portato... Che non arrivi all'eugenetica. No, Marco, aspetta, no, assolutamente no. È anche un secolo che oltre a portare tante cose negative ha portato tante cose estremamente positive. Una di queste è il riconoscimento che, a quanto ne so io, ho fatto un po' di ricerca, ho anche scritto un libro al riguardo, per la prima volta nella storia dell'umanità si è giunti a riconoscere la parità ontologica, giuridica di tutte le persone, comprese quelle che nascono con dei forti handicap fisici e psichici. Ora, che cos'è questo fatto? Tu dici, io devo dare all'embrione la dignità dell'embrione, devo dare allo zigote la dignità dello zigote, al blastocisti, eccetera, eccetera. E dicevi, devo stare all'oggetto, è l'oggetto stesso che comanda in un certo senso il rapporto che io devo generare con lui. Ma Il fatto che nel Novecento la società a partire dal 10 dicembre 1948 abbia riconosciuto alle persone gravemente handicappate la stessa medesima santissima dignità di ogni essere umano, questo che cos'è? È qualche cosa che, come dire, che scaturisce dall'oggetto? O è qualche cosa che al contrario è in un certo senso un movimento che il soggetto stesso proietta sull'oggetto? Di per sé non c'è parità, cioè siamo chiari, di per sé non c'è parità ontologica. E chi vuole la parità? Cioè, aspetta, fammi... Che valore è? Di per sé non c'è la parità, eppure la legge dice tutti, compresi coloro che sono nati a causa di sfortunati eventi, con degli handicap fisici e psichici gravi, tutti devono avere gli stessi diritti, tutti sono ontologicamente uguali, è un'attribuzione che si fa. Allora, che cosa si... perché? Per il bene di queste persone. Secondo me, peraltro, questa è una grandissima conquista dei genitori di questi ragazzi. Io sto pensando in questo momento a Nati due volte di Giuseppe Pontigia, dove Giuseppe Pontigia dice appunto sono nati due volte, una volta sono nati fisicamente, la seconda volta nascono ancora quando noi genitori li facciamo nascere nella società come persone. Questa è una grandissima conquista dei genitori. Ma col tuo ragionamento questa cosa non è congruente, perché qui si ha veramente l'attribuzione di qualche cosa che l'oggetto stesso di per sé non ha. E difatti la storia alle nostre spalle, anche le grandi civiltà greche, le grandi civiltà latine, su cui noi ancora camminiamo per tantissime cose, verso cui siamo debitrici per un'immensa ricchezza culturale e anche spirituale, ecco, queste civiltà non conoscevano tutto ciò, come ben sai, li chiamavano mostri. Perché, diceva Cicerone, mostravano, sono come dei segnali che mostrano, ecco, come dei vaticini. Va bene, ma detto ciò, e chiudo, io dico, esiste nella coscienza umana la capacità di, nel nome dei valori che sentiamo noi, nel nome del singolo, del comune valore dell'umanità, esiste nella coscienza umana la capacità di attribuire al fenomeno fisico di vita umana che ancora persona non è, qualche cosa appunto la medesima dignità. E secondo me in questa stessa prospettiva si ha il rispetto per gli embrioni come persone, per quanto non lo siano, perché è ridicolo, sono d'accordo con te, parlare di un embrione come di una persona, essendo la persona un centro responsabile di libertà. Rispetto, Marco. Rispetto. Sì, rispetto, il non uccidere, la himsa, che è presente anche nel jainismo, che è presente, anzi, soprattutto lì, che è presente il Dalai Lama non crede nel creatore, eppure dice l'embrione, noi crediamo che lì sia, in quel momento, sia comunque l'effusione dell'umanità, l'effusione dello spirito, dell'anima, e quindi... Per il buddismo, dice il Dalai Lama, l'embrione va rispettato. È semplicemente perché? Perché tieni conto che è una forma di vita, il rispetto. Salvo poi fare quel discorso che facevo sui sovrannumerari, sul fatto che la ricerca per sconfiggere alcune cose ha bisogno, eccetera, eccetera. Sì, ma vuoi dire qualcosa ancora? E io mi mordo le labbra, come tu ben sai, lascio a te la parola. Nel senso che non abbiamo qui le due ore... quali le avremo, spero, Vito, un'altra occasione. Però è anche utile approfondire. Non ci sono molte occasioni, soprattutto credo con lo spirito con cui cerchiamo di farlo sia l'uno che l'altro questa sera. Ma veniva di pensare una cosa. A volte, se devo spiegare che cosa per me storicamente ha rappresentato... probabilmente nella storia dell'umanità il novus cristiano, potrei dire però anche quello biblico comunque, è che passiamo da un paganesimo nel quale antropomorfizziamo gli dèi, non prestiamo i nostri sentimenti, le nostre altre cose, è un altro mondo ma è un po' come il nostro, a invece una religione in cui si dice che c'è l'assoluto Dio, che le forme trinitarie o no, e via dicendo, che da quel momento dice che ogni essere vivente della specie umana, il buddismo non fa questa limitazione spesso, no, dico della specie umana. E ha detto che con ciascuno di questi esseri c'è un rapporto con l'assoluto, con la trascendenza, con Dio, e che lui è arrivato per tutti costoro. Quindi, soprattutto per gli schiavi, per i deboli, per gli oppressi, per le puttane, per i malati, per i carcerati e via via. Anche se ci vuole poi un po' di tempo, nei secoli, per capire che è avvenuto anche per gli schiavi, visto che invece insomma, la schiavitù veniva ritenuta ancora possibile, no? Anche in altre sfere, storicamente. E quindi, sono d'accordo, quindi il nostro umanesimo dice che rispetto al vivente e poi le concezioni del welfare universale, non quello che abbiamo conosciuto in Italia, per noi riguarda sicurissimamente tutto quel che è vivo, che ha un elemento di relazione. Non ho difficoltà, ne parlavo proprio, mi pare, nel dibattito con Fagioli, che ho l'impressione, per esempio, che si possa anche immaginare che il feto ad un rivo a un certo punto riceve suoni, gli può già cominciare a mediare, ma che indubbiamente la pienezza di un essere vivente umano nel momento in cui vede la luce, nel momento diventa lecito battezzarlo, nel momento diventa lecito la non bestemmia di appunto andare dal feto per amministrargli i sacramenti, magari anche la cresima quando abbiamo l'abitudine di unificare le due cose, insomma. Quindi su questo credo che ci voglia, come tu dici, molta prudenza. Allora, noi diciamo che l'informazione è quello che dobbiamo. La conoscenza come nascere insieme, come conoscere, ad una terza cosa che muta il soggetto conoscente e l'oggetto conosciuto. Questo ci tengo moltissimo a questo. Ma vorrei assolutamente dire, la pillola del giorno dopo non è abortiva. E non c'è perché c'è la dignità da riconoscere quella cosa, perché altrimenti sarebbe una esasperazione folle del materialismo nel momento in cui il processo naturale ti crea una cosa che può divenire con X probabilità una persona, a quel punto non devi intervenire. La pillola del giorno dopo comunque interviene prima. Poi abbiamo la RU, di cui stiamo parlando adesso, ed è sentiamo l'assassinio. Non è solo Gasparri, ma devo dire Fisichella, che ha una alta responsabilità pontificia. Ti riferisci a Monsignor Fisichella? Sì, sì. Ah, chiedo scusa. Basta dire Monsignore per un arcivescovo? Sì, sì. Sì, va bene, no, non vorrei che tu mi correggessi un'altra volta. Sarebbe un peccato. Io dico, ripeto, Fisichella. E non intendo... Sì, scusate... So che in fondo c'è gente che più importa che il fatto, c'è un Fisichella che adesso è il nuovo pilota. Appunto. Vabbè, chiedo scusa. Io invece, nelle mie illusioni, per Fisichella è quello là. E non è che dica cose molto diverse anche rispetto alla futura legge che deve venire. Ecco, ho terminato, però davvero su questo credo che ci voglia molta prudenza come virtù, non come calcolo, non come furbizia. E estendere quindi questo dovere di riconoscere dignità, indipendentemente in modo assoluto dal carattere di possibile soggetto e non oggetto di uno sviluppo, diciamo, naturale, anche su questo credo che starei molto molto attento, perché se no travolgiamo il senso del diritto, il diritto di nascere. No, non è il diritto di una persona, non è il diritto della persona, nessuno non lo ha chiesto. Non ha chiesto. E sono d'accordissimo che grazie alla scienza Noi possiamo assolutamente farci forti del fatto che riusciamo a individuare le deformità o le ipoteche di malattie del nascituro. Benissimo, dovremo provvedere dopo. Con i genitori, se i genitori lo vogliono, perché c'è un elemento di amore, se no non è che per legge rischio immediatamente di condannare i genitori come degli assassini o non so che cos'altro, dei cattivi genitori. Cioè a volte lo scegliere, per esempio, se quell'altro arrivo, ci sono già 3 o 4 figli con i quali c'è il problema della fame e della strada e parlo del terzo mondo, ma non solo, credo che lì anche i genitori possono probabilmente fare legittimamente, senza idolatria e feticismo, delle scelte d'altro tipo. Ma